Alberto, ma ci sei ancora? Antonio, ci sei ancora? Antonio. Thank you. stato Antonio Pombo. Antonio Bombolito. Cosa faccio? Rimango in radio. No, io ero qua e stavo manovrando appunto queste cose. Ho fatto un massaggio alle cicine giusto per vedere se stavo uscendo, ma mi ho messo le cuffie, ho visto già stavo uscendo. No, no, già e c'è già. Sai l'impaccio ti stai dando che? Ehi, all'inoite 294. Va bene. Già. La verità non la conosco, come radio non la conosco, la verità ti dico. Perché non te l'ho mandata? Sì che te l'ho mandata. Già te l'ho mandata, tu, è quella base tutta cromata, tutta, capito, quella lì, aspetta che abbasso leggermente qua, ecco. Tanto mi sa che questi devono andare così, perché se aumento troppo, vedi, ora 1, 2, 3, 4, è troppo alto. Soldi mi sa parecchio, non piglia golpe di nulla. che c'ho 790 flux. 790 flux, ah, io ho capito qual è. Ho capito. E vabbè, c'ho un vintage che non è prendere a colpi, tu prendi il DAC, no, non si sente niente. Il DAC è una cannonata. Sì, sì, no, ma vanno bene, anche questo Zeus che sto utilizzando adesso, l'Alfa Jet. No, il bianu danu danu danu danu zero colpi infatti secondo la radio che usi non è quello non colpi gappa gappa già va bene ehi vabbè già si può modulare anche con questo eh? Che questo è un bel forte come perché c'è il mickey in questa radio capito mentre 574 non ne ha quindi questa pompa molto di più di radio lo so no, adesso sono belle perché mi volevo gubafonille io qua no sì, l'unico posto che ho è questo mobile e ce ne sta ancora qualcun'altra e se no non avrei posto per metterlo l'unica cosa che mi vorrei prendere un amplificatore più grosso vediamo. Ehi vabbè, ma ho già detto a tutti. C'è la possibilità, te lo prendi, se no ce lo piglia il luci, tanto. Per fare due chiacchiere ci vanno bene anche baracchini così, 5-6 parti, cosa? Già arriviamo a tutte le parti. Aspetta, ti faccio sentire l'altro microfono come fammi, a vedere se secondo te è un innesco di massa. C'è un rientro di qualcosa, aspetta che cambia. Prova. Guarda, rumore senti. Oh. Bassa l'amplificazione. C'è l'amplificazione bassa adesso, no? Vedi? Se invece io sollevo l'amplificazione, che la metto così, guarda. Ma intendi? Ah, senti com'è. Guarda. Qua. A te, come fa? Già lo so, provato qua il connettore. Ah ecco, il connettore non lo fa. Qua, se metto... Ah ecco, che... Se tocco il connettore non l'ho fatto. Perché? Perché prima di... c'è il sicuramente c'è il... Non so se te l'hai fatto tu, non so se te l'hai fatto. Chi te l'ha fatto sicuramente non ha attaccato la massa. Vedi, se tocco il microfono, se invece tocco il coso, non lo fa. Vedi, aspetta, ora, 1, 2, 3, 4, aspetta che solleviamo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Che non lo fa. Qua. Vedi che non lo fa. C'è il coso di massa attaccato, cioè. Il coso dentro all'interno della radio, dici tu. Qua. La massa che te ne vari, ragazzi. Te lo immagini? Allora è dentro il connettore della massa. Aspetta che provo a aprirlo tu, me li dai 2 minuti. Vai, apri, secondo me c'è stato eliminato, non so, ci sarà il filo della massa attaccato, fregatene, quando fa così. Adesso lo controllo a vedere, se è così, aspetta. Perché molti lo eliminano, magari ben sani che è, però devi controllare, non si sa mai che si è attaccato. In mezzo al capo c'è qualcosa che il vero coso di rama sta attaccando per quello che ti fa così adesso lo controllo il tuo aspetto niente senti tu già si sente già ma dovrebbe salire anche la freccia del MB più 5 sicuramente c'è MB più 5 quando fa così controlla ora Vedi? Ora il vostro altro, un altro tipo di cavetto, aspetta. Ya, a ciappato l'hai il guascio. E come mi stai dicendo tu sto facendo? Un cavettino di massa nel connettore della, della presa, dell'attacco. Ya, prova a vedere. Sicuramente ho, non lo so chi tu te l'hai fatto in connessione, perché molti hanno il vizio di non attaccare la massa e quello fa girare i coglioni poi. È un casino, eh. No, no, te l'ho comprato già così, capito? L'ho comprato già così. Che qualcosa c'è? Ma adesso non senti niente? Lo sto facendo già. No, fa, no. È un casino. Batteria buona, eh. Ehi, è roba nuova. Che allora è inchibile. Ma che cosa è il connettore? Ora il connettore, addirittura il cavo che ci ha attaccato la massa. È un casino, quando è così, ti gira le palle e basta. Anche adesso lo sta facendo. Sì, sì, lo fa, lo fa. Mentre invece così non lo fa. Ora, ora. Così non lo fa, vero? No, no, assolutamente. Anime Lucas, Anigetto. Scappa, quando fa così, quei difetti lì. Te lo sto dicendo, potrebbe essere anche il cavo. Il cavo vuole tutto sostituito. Se metto il cavetto attaccato al connettore non lo fa più. Hai preso un cavetto e l'hai attaccato al connettore, così è. Dalla massa del microfono al connettore, va, e non lo fa. Ehi, a chi piace accadere un video della massa, fregatene, è così, è il chiaro segno. Il filo della massa dentro il microfono? Dentro la spirale, sicuramente è staccato. Allora là però controllo, mi ha rompito le balle, aspetta. Sì, sì, ma è così, magari... Ma cioè, devi controllare proprio il connettore se c'è qualcosa. O magari chi l'ha fatto, chi ce l'aveva prima l'ha fatto già così, senza un virus di senza ghisse, ma che se ti fate impazzire? Perché è chiaro segno che fa questa cosa qua, ci manca proprio la massa. Io adesso ho controllato, dammi 2 minuti, dai. Se ci sei, così lo riproviamo. Che? Okay. Addirittura si è tagliato rossi. Era la collega di Gucci. Ehi, provaci pure. Adesso vediamo, dai. No, questo l'ho comprato così. L'altro che ho me l'ha fatto Luca Flipper, è fatto bene. Questo l'ho comprato già col connettore così, capito, a 4 per l'Avan 48. Può essere mai originale. Ehi, ehi, originale. Può essere anche che ci sia che ci sia guastato anche il filetto di dentro. Si è craccato, di tutto può essere. Sì, io avevo il connettore, vedi. Ma prova, è il chiaro segno che manca la massa. Adesso lo apro, te lo dico. Sì. Va, adesso mi viene sembri di qualche tempo fa. Amicone, ma io sono nuovo, parlo da poco. Sicuro? Mi sembri coso, ma adesso non mi viene. Non mi ricordo più adesso. No, Babbo Natale mi ha portato il barattino, capito? Mi ha portato il baracchino. Mi pare cosa, come ti si chiama? Ma che sa, adesso non mi viene il nome, cazzo. Fabrizio, il Barrado. Allora, Fabrizio, buonasera a tutti quanti, buon Natale, ciao Antonio, ciao Claudio, saluto. No, stavo parlando e ti ho sentito, Antonio, tu mi hai visto mancante. Vabbè, Fabrizio, tutto bene. Ma già ti ho riconosciuto che eri tu. Tutto a posto, dai. Tutto a posto. Stavo spazzolando, Luigi, ho sentito... poco fa c'era una pernacchia, un coglione, l'ho sentito anche ieri, avanti ieri. Poi stavo spazzolando e poi ho sentito a te. Una portata ho sentito qua. Stiamo facendo... Aspetta, stiamo facendo le prove. Se c'è una fischi, tu vuoi suonare. Che cappa, magari è una bernacchia di latinozza inteso, se quella solita. Ma diciamo che forse non penso, se arrivava 9. Se la veloce può avere un antennino, ma era 9, quindi non penso che non sia quella. Cappa, io non sono più alta, cioè, come ti arrivo lì? Ah, non c'è la veloce, cazzo, arrivi 9.20, 9.10, 9.20 modulato, là. Ma se dove stiamo volando? Qui vicino. Oh, da zona Sassa di Vecchio. Abito in zona lì, Santo Bulinare, quella zona, ma c'ho l'antenna grande, cioè. Ah, per quello, perché arrivi benissimo, arrivi bene di modulazione e tutto. Ma io Cla, riprendi Claudietto, tutto a posto. Anche Claudio sta cercando di mettere a posto quello lì. Anto, come la cosi di segnale e di modulazione? Capito? Com'è la modulazione, Anto? Bellissima, va bene. Ok. Il segnale, aspetta che ti lascio la portante. Si c'è intorno 9.920, dai. Radio 5. Quindi la modulazione va bene, sì. Sì, va benissimo. Che antenna stai usando tu? Ah, io sto utilizzando sempre un Dittoro che utilizzo per l'ascolto. L'ascolto è rivolto verso il mare. Capito? Io faccio l'accordo, perché poi non è neanche per questa frequenza. E lo accordo e vado avanti con quello. Perché mi interessa più l'ascoltare, capito? Tanto a casa più o meno mi ascoltano, capito? Sì, a voglia, va bene. A voglia. Ci ha fatto piacere comunque sentirti. Era da tanto tempo che non ti sentivo più, cavolo. No, è un annetto non entravo. Cioè a modulare qua. No, perché ero in Corsica, capito? Sono in Corsica laggiù. Adesso siamo rientrati per le vacanze e poi ripartiamo, capito? Ripartiamo, adesso ci diamo come cazzo, il 10 o il 5 o il 10 del prossimo mese. Andare un'antenna più grande. No, non mi interessa, tanto non me ne frega niente, l'importante è che mi ascolti una chatta. Poi quando voglio fare attività e fare DS nel mio QTH estivo in campagna c'ho tutto, c'ho direttive, c'ho la Mantova 1, c'ho antenne VHF, c'ho un po' di tutto di fuori, capito? Qua mi basta questa, poi c'ho degli antennini per ascoltare le camicie, perché va bene così, qua per il momento mi va bene così. Già campagna, ce l'ha avuti tutti? No, negativo. Allora io ce l'ho, come ti posso spiegare, più o meno è in zona Marrizza, tra Marrizza e Corso. Siamo di fronte alle Vindici, però un po' in pianura, un po' in collina. Io vedo tutta la costa, da dove sono io. Lo vedo il posto, bello. come il tetto di archioffetta, perché c'ho, è un piano terra più un primo piano mansardato, però c'ho una terrazza di 75 metri quadri. Capite? Infatti lì c'ho un calicetto di 9 metri, che c'ho due direttive, poi c'ho la mantova, poi c'ho una S7000, c'ho dei dipoli, un po' di tutto c'ho, ma lì non sono per cazzo nessuno, non hai problemi se è sul tetto, poi non si appiovente, quindi non è che puoi fare più di tanto, magari quando il periodo scendi giù, no? Al mare. Ma l'estate sono sempre lì, capito? L'estate io sono sempre lì, oppure anche durante l'anno, vado ogni due già adesso no, perché sono fuori in Corsica, però faccio 2 mesi là e poi faccio 10 giorni qua, capito? 2 mesi là e 10 giorni qua, e quindi, però ci va mio fratello, già è frequentata, dai. Fai bene. Fai bene. No, già è bello lì, Stavolo. A voglia. Che va bene. E mi ricordo che lì ci vai spesso tu, sei sempre fatta mona poi. Ti invito sempre lì un po' di volte. Sì, poi vicino a me c'è anche mio cugino che lui diciamo che c'è quasi sempre lì. Ma io penso, io da lì vedo tutto, vedo la punta di Porto Torto, con Balai, con Sentino, e arrivo un pezzo, diciamo che della Litorania vedo, per esempio, l'Insieme Marittimo vedo di Bell'Orizzonte, quel pezzo lì, poi mi frega una collinetta, io vedo tutta la costa, vedo tutto, è una bella cosa. Poi guarda, in Italia sono 800 metri al mare. Bello, lì è nel paradiso terrestre, non ti rompere le cazzo di nessuno, soprattutto adesso prima di incominciare il caldo forte, Emilio, c'è ancora più silenzio, no? Non ti rompere le scatole di nessuno proprio. Sì, vai tranquillo, poi pensa, io faccio, dal mio cancello faccio 10 km e 2 sono al mare, però perché lo faccio diciamo con la strada, quindi dall'aria è 800 metri. È buono, è buono. Anche il giorno proprio da lì, adesso ci sentiamo. Sì, ma io ho già fatto le prove, ne ho già trattate e arrivo. Capito? Poi non è un problema. C'è la direttiva, c'è la mantova, poi puoi attaccare la stufa lì. Non è come qua, se come l'attacchi un po' rompi il coglione. Perché là, quando tu vivi in una casa da solo e non sei in condominio, sei in coglioni, puoi fare tante cose. Soprattutto poi qua che ti sono una piovenza, non puoi fare più di tanto, capito? Tipo tra lici, di fuori un casino, capito? Non è come avere una terrazza tutta per te. Lo so, io vabbè, ci puoi attaccare una verticale, boom, non è che puoi fare chissà cosa. Caffa, aiù, acciarati. Fatto? Vedete, sta cercando di, come si dice, sta cercando di abbasso qua. Sta cercando di chiamare, boh. Sì, sicuramente. Oh, guardate loro che tutti positivi, mi arrivano tutti forte, tutti qua. Sì, poi ho visto, diciamo che come male, io vabbè, quando scendevo un po' ascoltavo, c'è un altro che c'è lì in centro turco, mi arriva fortissimo. No, lui non è al centro turco. Io mi chiamo Ovicia Cassione, può essere, una cosa del genere, avevo sentito un giorno un ragazzo e la forte qua, e poi dice che sta fare una bumbera, un profeta, Gianni. Forse Gianni, e mi ricordo che parlava che aveva una bumbera, una cosa del genere. Via, ma... lui è vicinissimo a me. Siamo arrivati più di forse, infatti quando ci stiamo ascoltando, cazzo non ti arriva a portare giù, no? Cazzo come mai, dove c'è? Ma qui non ci siete più qua la croce. Aspetta, saluto bene a Fabrizio, dai, ciao Fabrizio, buonasera, ben ascoltato, ciao. Alle prese con un microfono della minchia, non riesco a toglierne i piedi, l'ho messo a posto, sì. Si ammazza, andiamo a mare, ok. Ciao, buonasera, ben ascoltato, vai, due prendi. Ehi, Cla, buona, aspetta, ok, ben ascoltato anche a parte i miei auguri e a tua famiglia. Ma come mai sei così basso adesso, Cla? Non sei con il tuo segnalone come sempre, come mai? No, sto usando un baracchino vintage, che lo stavo sto cercando di mettere a posto un microfono, ma non c'è niente da fare, no. Allora l'ho preso e l'ho messo a posto, va. Sono col baracchino, se vuoi commuto con l'altro se non mi senti bene. No, io già ti ascolto, mi arrivi 4 adesso, ci si mi arrivi 9 più. No, io già ti ascolto bene. Fa tutto a posto, dai, tu tutto bene o qua? Si tira avanti, sto bene, oramai di bene non c'è più niente con questo cacchio di cose. Aspetta, come lo tocco questo microfono, cazzo, lo piglio, devo lampare un gomo, vedi? Mi rifaccio le connessioni al mio, all'altro, quello che ho, perché questo è veramente da buttare nel cesso, sto cazzo di microfono. Niente, con questo casino che c'è, cosa vuoi fare, Fabri? Non c'è niente da aggiungere, niente da dire. Siamo nei casini totali, dai, capito? Va bene, avanti Anton, riprendi, dai, non c'è niente da fare, la massa è attaccata, c'è qualcosa nel circuito del microfono, dai. Dall'altro dicendo, può essere anche il capo del microfono, potrebbe essere che sta rompendo un po'. Tu entro d'occhio, è un casino. È tutto un casino, metto il microfono a spesso e cambio il radio, ma lo dico io. Vedete qualcosa di massa, mio clan, perché sempre c'è anche di rumore. Non è neanche un innesto, è proprio un suono fisso. Rompi male, sarà. Non è che è così. Ok, Anto, stavo dicendo, quindi non abitate più quella croce? Io non abito più, mio padre sì. Mio padre già abita lì, già. Ho cambiato il radio adesso, dai. Ah, già va bene, non per più Radio 5 Super. Ma tu ti sei sposato, Anto? Stai vivendo... Cosa sei sposato? No, non sono sposato ancora, ma convivo. Ah, ho capito, e allora già andava, eh. Andare, ok, va bene. Infatti l'altro giorno sono entrato, stavo ascoltando, cazzo, non prego a forza, dove ti c'era? Credo che fosse così in macchina, invece poi ascoltando, no, non ero in macchina. Ma che cazzo ci ha messo l'antenna qua la feroce? Sono passate 9.000. E cappa. Io abito in una viuzza di lì, adesso se tu ti ricordi dove è il panificio toscano, io abito in quella via lì. Aspetta, via Santa Apollinare, può essere? Non mi ricordo com'era quella via. Via Santa Apollinare, può essere? Dove c'è la fontana, Anto? Lì abitava Lino Torre Bravo, invece ci vediamo. E la vai una salmuba, Ocla. Gaia, in quella zona. E lì abitava Nino Torrebravo, capito? Nino Torrebravo abitava in quella dove c'era la piazzetta che c'era il panificio toscano, era di Nino, Nino Clau. E c'era la fontana lì abiti. Quello lì posto di vita. E vabbè, non mi danno mi strani, io, guarda, sono una vita a Sassari, ma il centro storico proprio, non lo conosco, capito? Posso girare tutto, non mi perdo, però non mi dire i posti perché no, non lo so, capito, sto ritirando la roba. Adesso già mi senti bene, Fabri. Ica, adesso sono andata a Guba. Beh, questa è la radio grande, ci mancherebbe altro, come mi sentisci? Sulla modulazione, tutto grande, a posto, brutto, tutto un altro pianeta. E tu come mi ascolti invece di modulazione e di segnale o qua? No, ti ascolto benissimo la grande, sentiamo la nuova Radio 5, non c'è problema. Perché la radio com'è? Buona, bassa, alta, com'è o qua? No, buona, ottima, 5 perfetta, Fabio. E anche tu arrivi bene, benissimo. Ok, quindi dove sei? Dove c'era il panificio? Ho capito, dai, quella zona lì. Sì, cappa. In quella zona lì proprio. L'antenna si vede proprio quando tu vai verso il panificio, l'antenna si vede, l'antenna mia. È alta, eh. E quanto ce n'è a me, tanto. A Ringo. La Ringo, no, quella c'è radiale o quella senza radiale? Ma questa è radiale, no, o quella senza. Senza radiale, quella della Lemma. Ah sì, sì, infatti. C'è anche il catalogo qua. Sì, infatti ricordavo bene. Però è la vecchio modello, perché il nuovo ce l'ho avuto, mi si è attaccato un pezzo, non mi è andata bene. Allora, mio padre mi ha dato questa e mi sono piazzato questa qua. Allora, il vecchio nuovo, è importante che vada bene l'antenna, no? Sì, se con l'antenna nuova di prima, i cazzo sono più scarse delle vecchie. Ma appunto, qui c'è la BU e questo qua è il modello vecchio, era imbustata quando l'ho piazzata. E funziona più bene della nuova. Allora, quindi questo è l'ultimo modello, bla bla bla, e mi ha provarla. Ultima vecchia non c'entra niente, l'altra devi provarla. Quella vecchia e quella nuova, e vedi le differenze. Una rupesa, non leggendo le caratteristiche, perché molte volte leggi le caratteristiche, cazzo, questa è di luce, bla bla bla, la piazzi, e magari cazzo hai due, tre segnali in meno rispetto a quella vecchia pratica. Chiappa, no, quella là la devo solo riparare, la riparo e va la grande, va. Si è staccato il pezzo dove c'è il rivetto, capito, dove c'è la spirale, quello lì. È andata qui la vicina, cioè, vabbè, pazienza, quella lì li metto un bullone passante e l'aggiusto, la metto a posto. E allora, tu pensa, tutta l'estate scorsa, che ha smontato la campagna mia, la terrazza, una mattavola a 30 anni. L'ho smontata perché ho fatto i lavori in terrazza, e ho notato che ho approfittato lo scappulista, perché io sono stati fatti al mare, però quando l'ho piazzata tutta isolata bene, tutti gli agganci, poi tutti i radiali, tutti avvolti con del nastro, in modo che non... E quindi quando prendo l'aria, la vecchia resina, tutti punge, capito? Avevo tutto... tutto vulcanizzato, tutte le viti piccoline. Beh, cazzo, come l'ho smontato dopo 30 anni con le giunture che erano da un tubo all'altro, ho usato il temperino per tagliare il nastro vulcanizzante. So che era lucida. Cazzo, ho smontato le vittine delle radiali, che di solito quelle se tu non le isoli bene si usano, vai a svizzare e si rompono, capito? Beh, le ho svizzate normale, come l'avessi piazzata 2 giorni prima, non aveva allucinato. Questo cosa vuol dire molte volte perdere mezz'ora in più per isolare bene l'antenna, per cui quando va a smontarla è tutto più facile. Sì, così si dovrebbe fare. Ragazzi, ok, molti affrontano così, tu come tu vai a toglierla, i radiali si rompono le vittine, allora devi trapanare un casino, i radiali non li puoi toccare perché tutta la fibra di vetro si è già magnata. Un casino, poi le aggiunture e fai un casino. Però se tu ci spendi un 20 minuti in più per isolare la quarta con un attimo vulcanizzante, poi grasso, bla bla bla bla, allora io dopo 30 anni l'ho montata come l'avessi piazzata il giorno prima, non c'è nessun problema. Ecco, poi quella lì è un'antenna buona, ma lì l'altra volta non ne ho mai messo tu. No, verticali mai, antennini così, però per le camicie, capito? C'ho gli stili della Ecco, di quelle che si mettono in macchina, c'ho per l'ascolto, lì fai delle prove e basta. Però ti ripeto, quella lì ha 32 anni con l'antenna, con la mantola, proprio una delle prime, l'ho tutta smontata, poi mi sono affrentato col trapano, col tampone, tutta come si chiama? Che ti dice, aspetta, è un prodotto da fanculo, è tipo una faccia abrasiva, guarda, l'ho tutta lucidata, è tornata nuova, lucida, perfetta. E sono antenne qui che ti bene, sono gli stessi sulla mantova, la mantova, la Mantova C, queste cazzate, la Mantova 1 prima serie non ce n'è. Lo so, c'era anche Claudio quella lì, sta modulando quella lì, c'era anche Claudio. La sua è nuova lo stesso. Io ho fatto come ha fatto Fabrizio, ho sceso, l'ho portata tutta pulita con la lana acciaio, svita la lana acciaio, l'ho messo a aspirare l'uova, ho fatto tutte le cose nuove, i connettori nuovi, tutta rifatta nuovo e poi ripiazzata. I radiali però io Fabrizio, per non perdere la resina, per non vetrificarsi la resina, ho comprato uno spray da carboni, sempre pulito, non ti ci attacca nulla a mano. Sì, sì, lo so che c'ho quei frutti, io qua. Però io l'ho piantata 30 anni fa, capito? Da allora non ho mai più scelta. E l'ho scelta amico, è stata passata per fare i lavori in terrazza. E mi ha approfittato la uscita, però quando l'ho piantata, mi sono pensato più di mezz'ora. Solo per isolare tutte le aggiunture, tutte la bruneria, tutte le sacche anche che attaccano dentro il palo, no? Tutto. Si è risultato come le avessi piantate il giorno prima. Tutta bella, tu pensi alle aggiunture dello stilo centrale. Come l'ho tutta vulcanizzata, poi ho messo un'altra isolante vulcanizzata, ma proprio senza risparmio. Infatti tu per tagliare la mezza boccia che si è fatta tra un coso e l'altro, ho usato un centinaio di quelli grandi da cantiere, poi con una pinta è sopra lucida, l'ho portata tutta quanta, tutta bella lucidata, l'ho trovata nuova. E poi avevo trattato anche il tubo invece origina che c'è tra i radiali e il tuo centrale, là dove attaccato la spirale. Io l'avevo voglia messo un prodotto, mio zio mi aveva dato. E poi anche quello è che il vetrurino di certo ho sentito che Amuti si è spaccata. Se non so se è vero. Amuti sì, è un casino. No, io l'ho stesso, ho cambiato le fascette, le ho messo le fascette da volte, quelle in acciaio inossidabile. Capitadi. stazione me la prendo una, perché me la metto al centro tetto, me la metto, pongo tutte le zappe, tutte le cose, sono convinto che la musica cambia, niente da togliere anche questa, perché soddisfazioni me ne ha dato, me ne sta dando, però la mantova uno, la mantova uno. Come recessione, come tutto cambia, cambia, pure se cambia. Tutto è una posizione in cui sei tu, va bene. Devi avere una mantova per avere un po' più di spinta, un po' più di cosa, ho capito? Sicuramente è quello lì. Però già va bene. Non ce n'è problema. E quindi Fabri, sei rimasto in Sardegna quest'anno, cazzo, non ti sei potuto muovere? No, sono entrato, qual è stato? Il 22 sono entrato, no, dopo il tampone, e poi sono stato rientrare, capito? Però non sei guglione, non eri, anche, anche lì, come è successo anche in Italia, ti tira fuori un bloccato, tutto bloccato, un casino lì, capito? Sì, la polizia, i lavori, la vita li faceva fare, no? Però anche lì è un casino. Quel coglione, questo se non sei reggente lì hai problemi, capito? Se non sei diciamo francese hai problemi a muoverti, come a tutte le parti, ti mettono i limiti. Dove sei in croce che sto lavorando? Sì, con un, diciamo, mi ha parlato un mio amico, che lì ha tanti lavori per conto di un corso, uno dei tre famiglie più ricche della corsa. Questo amico mio ha 25 anni che ha a che fare con questa gente e mi ha detto lavori con questa gente, ti scorderai di lavorare in Sardegna, capito? Cioè, sono neanche 400.000 abitanti, però i soldi che girano lì è una cosa spaventosa, infatti si entra a Carelli, gente che ho 30 anni non vedevo, capito? Gente che lì si fa il cuoco, si fa lì un po' di tutto, allora tu pensa, lì c'è a casa, c'è uno che ho 30 anni non vedevo, che provano a fare assieme, e lì c'è 20 anni, famiglia lì, e questo fa il cuoco, un cuoco professionale, proprio, mi ha detto mamma così, abita a fare Milano che a casa della casa e cazzo ci avrebbero blasfemato, casa, tutto, ma buffonemi, io vado in Sardegna così, in vacanza, tanto se lì mi trame, dove sono io, da casa mia arrivare in oggi, tu pensa che la mobi, quando il mare è calmo ci mette 3-4 ore, arrivi, capisco, un'ora e un quarto, sei in sassa, capito, è più difficoltoso è arrivare a Cagliari che arrivare a sassa della costa. Ma tanto a già fatti, no? Allora, perché adesso l'inverno c'è solo la mobile, invece del stato c'è anche l'altra, non navi, una flotta genovese, navi che noi non prendiamo mai perché è il doppio dei prezzi della mobile fa, capito? Un esempio, se una persona con la mobile ci vuole 13 euro a persona, lì ce ne vogliono 26, solo la persona. Non se ne vari, ragazzi, un doppio. Riprendi, Anto, riprendi. Chiappa, aspetta un attimo, ci sono la luce. Capito, ossia, non vedi niente, cascarelli, poi sabbiano che invareggia, la parte bassa è piena, di tutto e di più. Perché la mia è che andavo da tanti anni, in vacanza, in corsa, c'è stato gli usi voti. Però diciamo, il corso non gli piacciono i lavori di fatica. I giovani sono tutti pieni di soldi, capito? Un'isoletta di neanche 400.000 abitanti che girano un bel di là, non capisco il perché, ma è così. Chi sono sfaticati, non è gai, travagliati. Che ti stai dicendo? Poi, vabbè, io lo sapevo anche a livello così, da prima, dagli amici, per parlare. Però poi quando tu senti dentro nel sistema, ti accorgi, anche con gli interessi, ti lavori fai bene. E che sei buona volontà. Poi del resto non ho mai sentito del tipo, guarda quanto sei caro, troppo caro, fammelo di meno. Noi come se no, no. Capito? Ma nulla. L'importante è che i lavori vengono fatti bene. E non c'è nessun problema di soldi. Una cosa impressionante. Cazzo non credevo fosse così, ma è una cosa spaventosa i soldi che girano in quel posto. Naturalmente quando fate i viaggi con un camion. Quello si chiama, poi infatti davvero. Oh, io me ne vado lontanare, dai che mi chiamo anche mia moglie. Se ci siete ci sentiamo dopo. Ciao Fabri, ciao Anto. Sì, cacciano qua, cacciano, siamo qua, per cui vuoi rientrare, noi cacciamo qua, per poi io, claro, non ci senti, poi io non ci siamo più, ok, dai, dai, ti saluto, stammi bene, effettivamente ci sentiamo, salutami anche in casa, salutami in radio, ci sentiamo alle prossime, dai. Oh, claro, ce la sentiamo, alle prossime, dai. Non ricordi Fabri quando caricavo i voci? Quanto era quel lavoro lì di prima, sul pezzo, l'ho fatto per 25 anni, come ti posso dire, dal 2013-2014 ha incominciato a imbastardirsi quel lavoro, io ti parlo a livello di trasporti, perché non c'erano, come si è stata fatta la guerra, le aziende per i prezzi, non c'avevo più il quantitativo da trasportare, capito? Soprattutto quando tu c'è solo due macchine o una, sei molto in difficoltà, ti si salva su quelli che magari hanno più macchine, magari ti va male, per esempio il lavoro, fermi le macchine, lì senti l'officina, però il proprietario più o meno campa. Però anche i margini si sono ristretti, non comunica più per la mia parte. Invece io adesso non c'ho problemi di un cazzo, faccio mille cose. E c'ho i soldi tranquillamente puliti, ma puliti veramente. E quello che noi guadagniamo in un mese, col cambio del cazzo, te li segnali. Lo so, lo so. Ma tu dico... che zona vivi tu? No, io facevamo Olbia, la Maddalena, e facevo tipo Budisola, Vissardi, Bitti, tutta quella zona di Orese. Però, ti ripeto, quel lavoro lì facevi, hai cominciato a fare i soldi, a fare bene, fino al 2010, capito? Oltre stai andando e arrancando, perché poi succedevano che le aziende si facevano la guerra per accaparrarsi i rivenditori, abbassavano i prezzi, bla bla bla, e appena magari non ti davano l'aumento per il gasolio, quindi le tasse, tutto quanto, avevi sempre i soldi contati, capito? E infatti tutti quelli che fanno quel lavoro lì, un po' si salva anche da solo, ma se poi c'è dipendenti, gli autisti, se tu li guardi le buste paghe, io ho già visto, non sono pagati come dice la legge, non gli danno le straordinarie, non gli danno, chissà adesso dopo un po' di orari devi dargli la trasferta, vero, tutte quelle cose non esistono, capito? Sono tutti fuori legge. Lo so, lo so. E a travagliare come te cane, boh. Non so se tu hai avuto dipendenti, però era lavorare come i cani e basta, cioè senza avere sedina. Non so, si lamentano tutti, si lamentano. Ma noi avevamo, tutti hanno fare con due macchine, avevamo due. Però alla fine l'estate si sa come funziona, non c'era più il tanto, capito? Giravi sì, magari incassati la fattura, però poi l'estate, tutto quanto, il gasolio che aumentava, alla fine avevi pochi soldi per la fatica che facevi, tu lo sai come funziona, no? Adesso io si pensa, io prendo 100 euro al giorno per 8 ore di lavoro, ma bufonelli, senza pagare la fitta né niente.